bandungu na mama mana nyaki dewe na meda no pondo kwini nyola la bona beno eta pondo tuna ndolo ngolo kwa bidema nde bandungu na mama mana nyaki dewe na meda no pondo kwini nyola la bona beno esi di tanjo bi mamere tondo e Esi di tanjo bi were mule ma e ke u masuka nende na bembe Esi di tanjo bi mamere tondo e Awo Esi di tanjo bi were mule ma e ke u masuka nende na bembe Bembe Bembe